Passo col mio amore in campagna in mezzo ai fiori, dove l'unico l'amore è quel dei nostri baci che non fa un rumore. Prati verdi e cielo blu, da scenario fa laggiù, da una nota di colore la bocca tua vermiglia che ha si buon sapore. In campagna un'altra cosa, mia bimba, che cosa? Per mio conto è sempre quella, ma bella di più. Vado a spasso con mio amore, in campagna in mezzo ai fiori, sull'erbetta in libertà, sognare ad occhi aperti che felicità. Un'altra cosa, mia bimba, che cosa? Per mio conto è sempre quella, ma bella di più. Vado e passo con mio amore, in campagna in mezzo ai fiori, sull'erbetta in libertà, sognare ad occhi aperti, che felicità!